Nello studio grafico-analitico di una funzione reale di variabile reale abbiamo visto fino ad oggi la seguente sequenza di passi. 1. Individuare il dominio della funzione. 2. Individuare eventuali intersezioni con gli assi. Tra queste due fasi è possibile inserire la sequenza dei passi utili allo studio di una funzione reale e stabilire se la funzione presenta delle simmetrie. In particolare, se la funzione è simmetrica rispetto all'asse delle y, si dovrà verificare che f di x è uguale a f di meno x. Se invece la funzione è simmetrica rispetto all'origine degli assi, si dovrà verificare che f di meno x sarà uguale a men f di x. Nel caso in cui la funzione sia simmetrica, o rispetto all'asse delle y o rispetto all'origine degli assi, si può restringere lo studio della funzione ai soli valori positivi e dunque costruire il grafico nel solo semipiano con x maggiore o uguale a 0. Per ottenere il grafico completo basterà simmetrizzare la curva ottenuta. Possiamo considerare la ricerca di eventuali simmetrie come un punto opzionale, anche se risulterebbe molto utile effettuarlo. Altrettanto si può dire dello studio del segno della funzione, e cioè della ricerca della positività della funzione, individuare cioè dove e per quali valori di x la funzione risulta positiva. Per ottenere questo risultato si studia la disequazione f di x maggiore di 0. Negli intervalli in cui la funzione risulta positiva, la curva sarà situata sopra l'asse delle ascisse. Si riporteranno quindi i risultati sul grafico, escludendo le zone che la curva non attraversa.